Qualche minuto più tardi, alla trattoria del Gallo Nero. Buongiorno, signor Lucchini. Come va? Bene, grazie. Lei? Bene, bene. Venite, questo è il vostro tavolo. Siete in quattro, vero? Sì, siamo in quattro. E che prendete da bere? Prendiamo un po' di vino? Sì, un rosso della casa. Va bene per lei, Sara? Vino rosso? Sì, va bene. Allora, un litro di vino rosso della casa e dell'acqua minerale. Naturale o gassata? Per me è uguale. Anche per me. Sara? Naturale per me, per favore. Naturale, allora. Benissimo. Andrea, ma conosci il cameriere? Non è il cameriere, è il proprietario. Lo conosco da anni perché mangio spesso qui. Ah, e allora che mangiamo? Sara deve assaggiare la fiorentina. La fiorentina? È la famosa bistecca con l'osso. È squisita. Oh, yes, ho capito. Ok, perché no? Allora ordino io per tutti. Ecco l'acqua e il vino. Signor Giuseppe, vogliamo mangiare la fiorentina. È la nostra specialità. Fiorentina per tutti? Sì, con dell'insalata mista. E mentre aspettiamo un po' di crostini toscani. Perfetto, ottima scelta. I thought you had a problem with T-bone steaks because of mad cow disease. Sara ha paura della mucca pazza. Non si preoccupi, l'unico pazzo qui è Andrea. Oh, scusate, è il mio. Pronto? Sì, cara, sì. Sì. No, no, sì. Lo so. Ci vediamo stasera, sì. Ciao, ciao. I bambini. Come stanno i tuoi figli? Marina ha due bambini bellissimi. Really? Stanno bene. Sono a casa con la babysitter, ma non vogliono mangiare. Lei ha figli, Sara? Figli? Bambini? Sì, bambini. No, non ho bambini. Lorenzo, lei ha bambini? Io ho Penelope. Lei è bella e affettuosa. A little girl? No, no, Penelope è la gatta di Lorenzo. Oh, sì. Oh, that's wonderful. Meraviglioso. Meraviglioso. Avere un gatto. Allora io ho due gatti. Sì, sì, è una moglie. Ecco le bistecche! Evviva! E adesso abbiamo bisogno di un caffè, va bene? Per me sì. Anche per me. Posso avere cappuccino per favore? Un cappuccino! Dopo pranzo, dopo la fiorentina e il Chianti. No, no, no, no, no, no, mi dispiace, è severamente vietato. Al massimo un caffè macchiato. Beh, io e Sara dobbiamo andare. Fra un quarto d'ora abbiamo un appuntamento con il dottor Bannini, il direttore commerciale dell'antica cantina. Bene, buon lavoro. Vorrei pagare il conto? Il conto? No, no, no, no, no, offre Italia Bella, vero Andrea? Certo! Grazie mille. It's been squisito. Ah, Andrea, torni a Firenze con Marina, vero? Ma io... Ciao a tutti!